Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Ancora la montagna, protagonista oggi a Olimpia in questa puntata speciale che vogliamo dedicare alle alte vette e alle profondità anche dell'animo umano che ci aiutano ad esplorare. E allora, proprio all'esplorazione dell'animo dei grandi alpinisti che ha incontrato nella sua carriera, è dedicato un libro curioso, prezioso, ricco, che ho qui tra le mani, qui in studio. Incontri ad alta quota, edito dal Corbaccio e scritto da Stefano Ardito, che questa sera è ospite di Olimpia, la città dello sport. Benvenuto Stefano. Grazie Dario, buonasera a tutti. Stefano Ardito, amico, collega, giornalista, esperto di montagna, penna acuta, ma anche picozza non male, no? Perché tu, Stefano, insomma, non ne parli solo della montagna, ma vai sul campo proprio a scoprirla e ad entusiasmarti per lei. Assolutamente sì, qualche anno fa facevo cose un po' più difficili di quelle che faccio adesso, ma la montagna praticata continua a essere una bella fetta della mia vita. Airone, Repubblica, Il Venerdì, Il Messaggero, tanto per citare alcune delle testate per cui scrivi, poi i tuoi documentari su Rai 3 per Geo & Geo, insomma c'è un rapporto intimo, no? Ecco, ti chiedo, qual è stato il tuo primo incontro con la montagna? Perché poi parleremo adesso del libro e degli incontri ad alta quota che hai fatto con i più grandi alpinisti della storia, ma nella tua piccola storia la prima grande piccola scalata che hai fatto qual è stata? Ma sicuramente la Maiella, a 13 anni. La Maiella potrà far ridere chi ci ascolta al nord, ma la Maiella è una montagna molto grande con sentieri molto lunghi. Eravamo in un campo scout sotto la Maiella, siamo partiti un capo che a noi sembrava grande, ma ce ne avrà avuti 16 più tre di noi, 13-14 anni, siamo partiti la sera, siamo arrivati su di notte, abbiamo bivaccato, all'alba siamo andati in vetta, insomma è stata un'esperienza molto forte, molto profonda, che mi ha fatto venire voglia di avventure di montagna. Mi fa piacere che citi una delle cime più belle degli Appennini, perché il tuo libro Incontri ad alta quota è chiaramente focalizzato sui protagonisti, da Reinhold Messner in giù, mi viene da dire, della grande storia dell'alpinismo, ma chiaramente anche su tutte le montagne che non sono solamente gli 8000. Ad esempio c'è un capitolo dedicato a Pierluigi Bini e al Gran Sasso, no? Pierluigi Bini è l'esempio di come l'alpinismo appenninico possa poi dare meravigliosi risultati anche sulle Alpi. Pierluigi è un ragazzo, adesso va per i 60 anche lui, ma lui negli anni 70, quando aveva tra i 15 e i 18 anni, ha aperto un sacco di vie molto difficili che hanno fatto fare un salto in avanti alle difficoltà superate al Gran Sasso, ma poi ha fatto le prime salite solitarie di alcune delle vie più difficili delle Dolomiti, quindi exploit assoluti, non solo exploit relativi all'Appennino. Quindi insomma spesso le cime appenniniche sono un'ottima palestra, o anzi direi cime impegnative e gustose con cui confrontarsi già di per sé, no? Beh, ma assolutamente, ma d'altronde non vale solo per l'Appennino. In Italia c'è un po' questa idea, no? Siccome la maggioranza dei frequentatori della montagna vivono al nord, che l'Appennino sono montarozzi, per carità c'è anche qualche montarozzo, però se guardiamo la storia dell'alpinismo, l'alpinismo su ghiaccio e su misto, come si fa oggi sulle Alpi, è nata sulle montagne della Scozia, che se si guarda la quota sono ancora più montarozzi del Gran Sasso. sì, insomma, quindi e questa storia nel mio libro viene fuori più volte, dai racconti di Chris Bonington, dai racconti di Doug Scott, di vari personaggi dell'alpinismo inglese. Sì, insomma, basti ricordare appunto la battaglia per il Cervinio, tanto per inquadrare l'importanza che i britannici hanno avuto nella storia dell'alpinismo, no? Certo, io poi sono molto... sarà che non parlo il tedesco, e questo per uno che scrive di alpinismo è grave, però parlo bene l'inglese e sono sempre stato molto legato ai personaggi sia inglesi che americani dell'alpinismo. Io ho avuto il piacere, per esempio, di incontrare Sir John Hunt, l'intervista è nel libro, che è stato il capo della spedizione del 1953, quella che ha compiuto la prima salita dell'Everest. E questi erano personaggi, lui faceva l'ufficiale delle truppe coloniali, che aveva fatto tutta una serie di spedizioni piccole, a montagne però di più di 7000 metri, delle cose pazzesche direi al giorno d'oggi, anche dato l'isolamento, la lontananza dalle basi, il fatto che non ci fosse alcun tipo di possibilità di soccorso, no? E sono storie poi belle da raccontare, ricche, corpose, piene d'avventura. Ecco, a proposito di avventura, perché poi alpinisti sì, ma spesso più propriamente esploratori e avventurieri, appunto, no? Perché la montagna ti attrae e poi la natura ti avvince. Mi viene in mente forse quello a noi più vicino, ma forse anche da questo punto di vista il più grande di tutti, Walter Bonatti. Una curiosità, nel tuo libro, nell'intervista, nella lunga intervista che pubblichi, che hai avuto con lui, c'è questa curiosità che mi ha colpito, il fatto che lui fosse sportivo a tout court, nel senso che era anche in origine un ottimo ginnasta, no? Vabbè, sai, per fare alpinismo a un certo livello, per fare arrampicata a un certo livello, poi devi avere un certo tipo di qualità fisica. Noi oggi, e su questo c'è una certa miopia probabilmente, nel senso che noi ci aspettiamo che un arrampicatore che fa il nono, il decimo, l'undicesimo grado sia ovviamente un atleta straordinario. Ma non ci aspettiamo la stessa cosa da parte di personaggi del passato, invece pure loro, che fosse Bonatti, che fosse Cassin, che fosse Cesare Maestri, anche loro, se li mettevi in una palestra di ginnastica, poi sicuramente avrebbero fatto delle gran cose. E sì. C'è un altro personaggio che è nato come ginnasta, che è Manolo. Già. Che guarda caso è quello che ha rivoluzionato l'arrampicata, anche lui c'è nel libro, proprio come capacità, libertà e creatività del movimento. Altro incontro che mi ha colpito particolarmente è quello con Sir Helmut Hillary, no? Hillary è strano perché quando a leggere poi i resoconti, ovviamente, perché io sono nato poco dopo quelle spedizioni, no? Non è che è un'epoca che ho vissuto. Hillary rispetto al mondo degli alpinisti delle Alpi era un assoluto parvenu, uno che non aveva fatto nessuna salita importante, era uno sconosciuto, però era una persona che aveva un'energia fisica pazzesca, aveva una voglia di esplorare straordinaria e poi questa era gente che un po' come i grandi alpinisti delle Alpi negli anni 20-30 li mettevi su un pendio di ghiaccio ripidissimo e infinito, questi cominciavano a tagliare gradini e andavano su per ore, una cosa impressionante. Senti, c'è una montagna che lega in qualche modo due destini, no? Quello di Reinhold Messner e di Simone Moro, ed è il Nanga Parbat che Moro proprio ha conquistato lo scorso anno con la prima invernale, stabilendo appunto, pur tra mille polemiche, su cui però al momento non entriamo, un primato da lungo tempo atteso. Ecco, esistono ancora queste montagne simbolo oppure... vinto quest'ultimo Moloch del Nanga Parbat in invernale, l'alpinismo moderno, postmoderno, si sta sviluppando in altre direzioni? Ma è una domanda che può avere vari tipi di risposte. Certamente i grandi problemi invernali sull'Himalaya ci sono ancora, perché resta ancora da fare il K2, che però è l'8000 probabilmente più impegnativo di tutti, il più freddo, il più ripido. L'inverno scorso Alex Zicon, il basco che aveva salito, che ha partecipato con Simone Moro a Litsat Pará e Tamara Lunger alla vittoria invernale sul Nanga Parbat, ha tentato di andare senza ossigeno d'inverno in cima all'Everest e anche quello sarebbe stato un exploit impressionante. Poi sì, naturalmente ci sono tante altre, le montagne possono essere lette in molte maniere diverse. E ci sono sempre delle nuove vie, delle nuove cose da scoprire. Per esempio, se ti vai a leggere nel libro l'intervista a David Lama, ma anche quella a Steve House, che sono due dei nomi grandissimi del presente, viene fuori che poi le montagne di 7000 o di 6000 metri nell'Himalaya non sono gli 8000, ma spesso sono più difficili e sono ricchissime di problemi tecnici, di grandissime vie. E questo genere di personaggi poi ci va con delle spedizioni di 2, 3, massimo 4 persone. Quindi a voglia quante grandi montagne e quante grandi vie ci sono da aprire ancora in Himalaya e nel Karakoram. Senti, 35 incontri, quelli che presenti in incontri ad alta quota, appunto, c'è un tratto più d'uno distintivo che unisce tutte queste personalità così diverse, tutti questi approcci così diversi, queste filosofie così diverse nell'avvicinarsi alla montagna? Beh, se ti dico che è l'amore per la montagna e per il verticale, dico una banalità totale, ma ovviamente questa cosa c'è. No, io credo, non lo so, le persone sono diverse tra di loro, le persone hanno diversi modi per approcciarsi. Sicuramente una grande passione per quello che fanno o che hanno fatto ce l'hanno tutti, il fatto che anche per molti di loro, quasi tutti questo, spingersi verso i loro obiettivi, spingersi, seguire la loro passione, poi alcune volte ha significato rischiare, sapendo di farlo e con la massima attenzione, ma comunque rischiare la pelle. Allora, abbiamo iniziato ricordando anche il fatto che tu sei appassionato, scrittore, ma anche conoscitore e praticante della montagna, quindi di solito quando si è così lo zaino è sempre pronto per farsi qualche altro giretto. È il prossimo che hai segnato nella tua personalissima agenda, Stefano? Ma vorrei tornare in Nepal, spero di farlo a primavera, a percorrere qualche itinerario diverso, perché parliamo di trekking naturalmente, non di spedizioni. Il Nepal è un paese che conosco bene, che amo molto, dove sono stato anche da giornalista dopo il terremoto a raccontare quello che era successo e come si iniziava a ricostruire. Il Nepal, per via delle strade di montagna che vengono costruite nell'interesse delle popolazioni locali, e poi non sempre lo fanno, ma di questo potremmo farci un convegno scientifico, però ha mangiato alcuni dei suoi trekking più noti e più belli. Quindi ci tengo ad andare a vedere qualche altro itinerario, che sia intorno al Manaslu, che sia intorno al Daulagiri, che sia verso il Kanchenjunga. Insomma, zaino sempre pronto per Stefano Ardito, che ritroveremo appunto a primavera prossima nel trekking nepalese. Noi intanto ci godiamo questo Incontri ad alta quota, edito dal Corbaccio. Stefano Ardito, in bocca al lupo allora, e grazie per essere stato questa sera ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, buona serata a tutti. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto e non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. Olimpia, miti e verità dello sport. È stata la battaglia alpinistica più celebre della storia, ancor più della conquista del K2, dell'Everest o del Nanga Parbat, i grandi 8000 della Terra. E ha visto protagonisti, prima misconosciuti, ora finalmente riconosciuti, anche e soprattutto gli alpinisti italiani. Di cosa parliamo oggi a Olimpia? Parliamo della grande storia dell'alpinismo, della montagna e di quella che è stata la vera e propria battaglia del Cervino, la vera storia di una delle montagne più celebri, amate e anche temute, perché il Cervino non è parete, non ha appendici assolutamente facili con cui venire a patti, e proprio la storia della sua conquista lo dimostra. Di questo parliamo oggi, grazie ad un libro prezioso e acuto che ha i tratti di una vera e propria inchiesta storico-giornalistica, La battaglia del Cervino, la vera storia della conquista, scritto da Pietro Crivellaro, che questa sera è ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera Pietro. Buonasera. Allora Pietro, davvero quella che sei andato a fare nel ricostruire tutte le vicende che portarono alla conquista e anche al dramma del Cervino, come fra poco ci racconterai, è una vera e propria inchiesta giornalistica, nei dettagli della quale ora fra poco entreremo. Ma aiutaci e aiutiamo anche i nostri ascoltatori a contestualizzare di cosa stiamo parlando, di che momento stiamo parlando, quando è che inizia questa battaglia per la conquista di questa celeberrima vetta. Allora, stiamo parlando della storia, come tu hai detto, centrale alle origini dell'alpinismo europeo. Siamo un secolo e mezzo fa, intorno al 1865. Il Cervino è la montagna da conquistare, un osso duro, molti la considerano impossibile da scalare. Ed è questo quindi che concentra l'attenzione. Io ho utilizzato il termine battaglia perché dietro non si tratta di un duello tra il nostro Carrel, diciamo il nostro alfiere montanaro, la guida, ex bersagliere, il bersagliere Carrel contro l'inglese Whymper. Invece alle spalle del bersagliere Carrel ci sta la squadra del club alpino nascente e soprattutto ci sta il ministro alpinista Quintino Sella. Questa storia non era mai stata raccontata. Eh sì, ecco, come stai ricordando, tanti e diversi i protagonisti, perché intorno a quella vetta si sviluppa una vera e propria battaglia non solo di picozze ma anche di diplomazia internazionale. Ora vi ricordo che Pietro Crivellaro è alpinista, accademico del CAI, giornalista e storico dell'alpinismo da quasi 30 anni, scrive sul supplemento domenicale del Sole 24 Ore, responsabile del centro studi del Teatro Stabile di Torino, quindi penna quanto mai qualificata nel ricostruire questa vicenda per questo volume edito dalla Terza. Ma ecco Pietro, tu ti sei mosso con gli strumenti non solo del giornalista o dello storico, ma quasi del detective, perché tanti sono i documenti inediti che proponi anzi per la prima volta in questo volume. Allora, diciamo che abbiamo scovato nell'archivio di Quintino Sella, custodito dalla Fondazione Sella a Biella, una cinquantina di lettere in gran parte ignote e alcune proprio inedite, che rievocano, che raccontano, che fanno luce finalmente su molti aspetti che erano rimasti problematici, perché bisogna dire la verità sulla storia del Cervino, una storia romanzesca, con colpi di scena continui e un dramma tremendo, come tu hai già citato, ci sono stati 4 morti, diciamo, nella cordata degli inglesi. E è una storia molto raccontata, ma c'erano delle cose che non quadravano. Prima di tutte, come mai il nostro campione Carrel era così tanto eroe che poi si è fatto battere? Ecco, credo che ormai, dopo il mio libro, questa storia è stata chiarita e nel frattempo sono emersi anche altri protagonisti, altri personaggi di grande interesse che mettono in luce il ruolo degli italiani alle origini dell'alpinismo. Anche perché, come sottolineavi e come ricordi chiaramente nel libro, gli inglesi arrivano sì per primi in vetta, ma perdono poi molti dei componenti di quella cordata nel modo più drammatico, no? Ricordiamo questo episodio. Allora, questo è il colpo di scena finale dopo vari colpi, altri colpi di scena, come ho avuto modo di dire. È l'ultimo. L'inglese Edward Whymper, 25enne, abbandonato da Carrel nei suoi tentativi sul versante italiano, si precipita sul versante svizzero, che per anni è sempre stato considerato più difficile. Invece, a sorpresa, si rivela molto più facile e insieme, una cordata di 7 persone, in realtà Whymper si aggrega ad un altro inglese molto forte, molto esperto, che è il reverendo John Hudson, che purtroppo morirà in questa tragedia. Riescono ad arrivare in 7 in vetta, nel giro di poco, ma in discesa, all'inizio della discesa, uno dei sette, un po' inesperto, scivola e trascina nell'abisso tutta la cordata. Sarebbero morti in sette se non si fosse spezzata una delle corde, cosicché muoiono solo in quattro. Wimper si salva con le due guide svizzere, Taugwalder padre e Taugwalder figlio. E a quel tempo là non succede come oggi, oggi che molti con la memoria corta considerano Wimper il trionfatore del Cervino. A quel tempo là Wimper è stato accusato duramente dai connazionali inglesi come per aver fatto fare brutta figura all'impero della regina Vittoria. Eh sì, perché la vita e tornare dalla vetta con la vita val più della conquista della cima stessa, no? Tra questi bisogna ricordare che c'era anche un lord, un giovanissimo lord, Lord Douglas, ed era, diciamo, anche questo particolare che rendeva questo evento, questo episodio così popolare. Allora questa disgrazia ha fatto il giro dell'Europa e il Times stesso ha scritto un'articolessa di condanna contro l'alpinismo nascente. Gli italiani arrivano in vetta dopo, ma dal versante anche più difficile e in completa sicurezza, malgrado le difficoltà, no? Già, la sorpresa è questa, che gli italiani, dopo anni e anni di tentativi capitanati da Carrel, diciamo che Carrel si fa battere addirittura d'arrivo. E possiamo, non lo so, passare sotto silenzio, per carità di patria, quali sono le ragioni. Le ragioni sono sostanzialmente venali. Lui credeva di fare i suoi interessi. In realtà si è fatto battere ed era incredulo, lui non immaginava. Per fortuna che dopo la sconfitta, invece di lasciarlo abbattuto e avvilito, viene ridestato da un suo compaesano, l'abbé Abbé Gorée, che era un alpinista anche lui, lo sprona, lo incoraggia, insieme all'ambasciatore, diciamo così, di Quintino Sella, Felice Giordano, e l'abbé Gorée accompagna Carrel in vetta. Ma sotto la vetta l'abbé Gorée si sacrifica ancora una volta, diciamo così, per fare scaletta a Carrel e a un compagno, e permettendo loro di andare in vetta, l'abbé Gorée li aspetta e poi tornano. Sono riusciti ad arrivare in vetta tre giorni dopo gli inglesi, ma riescono a tornare a Fondovalle illesi, senza un graffio, a differenza degli inglesi, e scesi giù hanno notizia della disgrazia che nel frattempo si è trasmessa da Zermatt al Breuil. Sullo sfondo, ma anzi poi al tempo stesso in primo piano, c'è l'Italia unita, no? L'Italia unita da poco, che cerca di costruire la sua storia comune attraverso, individuando anche nuovi eroi, nuovi protagonisti di questo vissuto comune, e questi alpinisti in qualche modo lo diventano, no? Io sostengo che questa è una storia da film, una storia che già sono stati fatti dei film negli anni 30, famoso film di Louis Trenker, La Grande Conquista. Oggi, a mio parere, bisognerebbe fare un film aggiornato che metta in luce la vera ragione. Quintino Sella, che è stato per così dire l'allenatore di questa partita, aveva in mente una cosa che a mio parere non è passata di moda. Aveva capito che una vittoria sul Cervino avrebbe migliorato enormemente la reputazione dell'alpinismo italiano. E il problema della reputazione degli italiani all'indomani dell'Unità d'Italia è un problema che mi pare abbiamo anche noi oggi, noi contemporanei. Cosa pensano in Europa degli italiani? Ecco, Quintino Sella voleva che la reputazione degli italiani venisse avvalorata da un successo squillante, e quindi ha avuto anche, diciamo, la modernità di dare un uso politico a questo sport nascente dell'alpinismo, perché è lui che ha fondato il Club Alpino e aveva già intuito che anche l'alpinismo, come altri sport già praticati dagli inglesi, avrebbero avuto anche un risvolto politico-sportivo. E allora il film magari arriverà, intanto godiamoci quella che è già la sceneggiatura, cioè questo splendido La battaglia del Cervino, la vera storia della conquista, edito dalla Terza e scritto da Pietro Crivellaro, che saluto e ringrazio per essere stato questa sera ospite di Olimpia, la città dello sport. Sono io che ringrazio voi e buone feste. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.